Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete quanto vale in Italia l'industria del fitness? 10 miliardi di euro. Questo è il giro d'affari annuo e se consideriamo anche abbigliamento e attrezzature raggiungiamo i 25 miliardi, pari all'1,6% del PIL nazionale. Questa è la fotografia del settore scattata in occasione di Rimini Wellness, la più importante manifestazione del settore giunta quest'anno alla sua 9ª edizione, edizione da record con oltre 250.000 visitatori, molti internazionali, l'occasione per noi per fare il punto sulle nuove tendenze, le nuove pratiche di allenamento che arriveranno in palestra nei prossimi mesi, destinate a diventare, come già avvenuto in molti casi, veri e propri fenomeni di costume. Seconda parte dedicata invece all'Italian Factor. Siamo arrivati ai casi di eccellenza. In questa puntata parliamo di un brand storico, un'icona del Made in Italy nel mondo. Il suo fondatore, questo l'indizio, è stato soprannominato il calzolaio delle stelle. Le immagini le trovate sulla nostra pagina Facebook, dal Samba Fit al Dancing 3D, passando per il Military Fitness, pensate, lo Street Work e il Thai Fit. Dall'Oriente al mondo latino, dall'acqua alla strada, questa settimana abbiamo voluto esplorare le ultime tendenze in tema di benessere e sport. Sono uscite da quello che è diventato ormai un grande palcoscenico di sperimentazione, Rimini Wellness, la grande kermesse dedicata al fitness. Ne abbiamo parlato innanzitutto con Patrizia Cecchi di Rimini Fiera, organizzatrice della manifestazione. Le tendenze in particolare sono sul piano, come dire, del fun, quindi dell'intrattenimento, sempre più l'abbinamento del movimento a musiche nuove. Quest'anno la new entry era il country fitness, nell'area, come dire, dell'abbinamento musicale, e quindi questa era la novità. Sulle attività di tipo invece quelle più tradizionali, se così le vogliamo chiamare, c'è la nuova moda che viene dagli Stati Uniti e che si chiama street workout. Viene direttamente dai ghetti di New York ed è la possibilità di fare attività appendendosi a grate, barre, finestre, anelli dell'autobus, ovunque sia possibile, con una certa preparazione atletica, poi fare sollevamenti e rotazioni. Restano le atmosfere latinoamericane da una parte e quelle orientali dall'altra, sono due trend che continuano? Sì, continuano, e lo Zumba, pur essendo meno nuovo, continua con il suo grande gruppo di adepti a livello mondiale, e anche nuove discipline si avvicinano con ritmi anche afro. Quanto tecnologico sta diventando il fitness? Lo è sempre di più per la parte appunto industriale molto importante che è dietro questo settore. Le tecnologie aiutano sia lo svolgimento dell'attività che ha la possibilità di essere interconnessi sempre, e anche la possibilità di trasferire per chi viaggia una sorta, come dire, i propri programmi di allenamento piuttosto che una sorta di personal trainer virtuale. E non ultima anche, guardando poi invece agli aspetti di prevenzione, che è l'altra faccia, come dire, della medaglia, che sta crescendo, per cui si fa attività per divertimento, intrattenimento e avere piacere di fare movimento, ma anche per star bene in salute. E quindi anche qui ci sono dei macchinari sempre più sofisticati in cui c'è il controllo minuzioso anche del movimento che si fa negli stessi macchinari. Nel mondo del fitness, dicevamo, ci sono pratiche di allenamento che diventano veri e propri fenomeni di costume. Entrano nell'immaginario collettivo e rispecchiano i tempi che attraversano. Una di queste è sicuramente lo step, il format di allenamento che fa muovere e saltare su uno scalino di 25 centimetri migliaia di persone in tutto il mondo. Evento di punta di Rimini Wellness 2014 è stato il compleanno di Reebok Step, che ha festeggiato i suoi primi 25 anni. Allegra O'Hair, Brand Director Reebok South Europe. Ci siamo divertiti moltissimo e È stato molto bello perché per la prima volta abbiamo avuto tutto un padiglione per Reebok, proprio per celebrare questo avvenimento, un avvenimento mondiale, perché ovviamente lo step nato negli Stati Uniti e abbiamo celebrato in Italia come nel resto del mondo, e abbiamo avuto Boy George dall'Inghilterra live che è venuto con noi a festeggiare. È stato un momento veramente bello. Che cosa racconta lo step di questi 25 anni? Ecco, che tipo di lettura in qualche modo in controluce o sotto la lente del fitness fornisce? Quando il fenomeno dello step è incominciato negli Stati Uniti è stato veramente un boom pazzesco. Questo è stato, secondo me, l'inizio di un fenomeno del fitness che adesso vediamo evolversi negli anni con, diciamo, altri tipi di fitness nuovi, come per esempio CrossFit, che abbiamo portato anche lì a Rimini Wellness, piuttosto che corsa agli ostacoli come la Spartan Race, eccetera. Per cui vediamo proprio da una scintilla degli anni Ottanta a un'evoluzione del fitness che adesso ha preso piede in tante diverse forme nel 2014. Qual è stata la forza di questo attrezzo, di questa pratica di allenamento? Perché ha fatto così presa e è diventato anche, come dire, un elemento comune, quasi identificato con l'attività in palestra? Secondo me è la novità. Quando lo step è stato lanciato negli anni Ottanta è stato nuovo e le persone si divertivano ad andare in palestra, a fare fitness, per cui era anche uno sport di gruppo che era divertente, per cui tutti questi elementi, essere sociali, anche un fitness che portava risultati ovviamente, che ti faceva stare meglio. Insomma, questo secondo me è la base del successo di step, e poi fare fitness e stare bene tutti insieme. Fra le nuove pratiche presentate quest'anno, Dancing 3D, dancing con la S, non con la C, perché è una combinazione di danza e canto, più la tecnologia 3D applicata allo sport. Paolo Evangelista. È una parola composta da due parole, da dance e da sing, quindi a questo punto qui viene molto facile capire che è una lezione in cui ci si muove e si canta. Dico ci si muove e non si balla perché in realtà è una lezione molto molto semplice, quindi non si parla di danza o cose simili, si parla di movimento. E anche riguardo il canto, voglio dire, si fanno delle liberazioni vocali, quindi il classico no, ma io non lo posso fare perché sono stonato, dimentichiamolo, perché in realtà è una lezione veramente molto molto aperta a tutti quanti. Come avviene la pratica del dancing? Innanzitutto l'ambientazione è un po' differente rispetto alla normalità, perché lavoriamo in un clima di penombra per poter effettuare le videografiche, per poter mandare nella sala. Oppure una cosa carina è che questo programma si fa non soltanto in ambiente fitness, ma viene fatto anche nelle discoteche, nelle piazze, nei villaggi turistici, nelle navi da crociera, quindi è molto aperto. La sala che viene approntata per il dancing è in penombra e ci sono queste proiezioni di visual grafici dove, oltre a creare l'atmosfera classica dancing da concerto, ci sono le parole che si devono cantare. A questo punto qui viene fuori il discorso del 3D, perché noi per quest'anno abbiamo detto, ma se queste parole, al posto che farle soltanto apparire, le facessimo proprio entrare nella sala, quindi le sparassimo fuori dalla videografica, ed è nato il discorso del dancing 3D, che ha avuto un successo clamoroso. Devo dire che è stato veramente molto molto molto apprezzato. Si crea un'atmosfera veramente spettacolare, perché si crea proprio una macchina da festa, una macchina da sudore, è un insieme di persone. Il bello è che effettivamente tutti sono protagonisti, quindi alla fine della lezione io vedo che sono tutti quanti contenti, durante la lezione hanno dei sorrisi incredibili. Dancing, se io dovessi riassumerlo, lo riassumerei veramente con un sorrisone a 360 denti. Street Work invece è la nuova disciplina dell'allenamento funzionale da strada che trasforma anche gli pneumatici in un attrezzo da allenamento, come ci racconta Claudio Ciolli. Nasce sulle spiagge, nasce ai parchi, nasce all'aperto, noi l'abbiamo portato nei centri fitness, l'abbiamo rimodificato e riadattato per essere un allenamento a 360 gradi per tutte le persone. Maggiormente si usa il corpo libero, poi c'è l'ausilio di alcuni attrezzi che sono le sbarre, gli anelli, le kettlebell, le gomme, i pneumatici dei camion, tutto ciò che comunque comprende un lavoro a 360 gradi, ma maggiormente col corpo libero. Poi facciamo moltissimi lavori a terra, quindi in push-up, che sono stati riorganizzati e sono stati resi molto più street. Fortunatamente ha avuto un successo strepitoso, abbiamo avuto tantissime richieste dei clienti della fiera per allenarsi con questa nuova disciplina. E poi c'è chi ha pensato di unire danza e fitness. Well Dance è un metodo nato in collaborazione con un grande nome della danza come Raffaele Paganini e la ballerina e coreografa Anna Rosa Petri. Well Dance è il primo metodo di allenamento che ha unito la danza, intesa come danza classica, jazz, hip hop e contemporaneo, insieme ai protocolli di lavoro del fitness. Quindi la prima volta in assoluto che la danza entra in campo ad allenarsi insieme al fitness. Quindi novità veramente assoluta e accettata benissimo sia dal mondo della danza che dal mondo degli allenamenti, quindi di persone che praticano attività fisica. Naturalmente la cosa che precisiamo io e il maestro Raffaele Paganini non è un nuovo modo di ballare, ma un nuovo modo di allenarsi. Questo è molto importante. Sono movimenti che provengono, come ho detto prima, dalla danza classica, dal jazz, dal contemporaneo, dall'hip hop. Sono delle fusioni che praticamente abbiamo unito, e questi allenamenti fanno parte di questi movimenti, queste sequenze di passi che coordinano gambe, braccia, testa, addome, spalle, con l'applicazione di protocolli di lavoro provenienti dal fitness. Abbiamo visto persone che comunque escono felici perché sono riuscite a coordinare braccia e gambe, si divertono, sono sorprese perché sono riuscite comunque alla fine a fare una coreografia. Quindi questo è il bello, perché loro sono sereni, tranquilli, si applicano nel movimento per allenarsi, ma in realtà nello stesso tempo stanno memorizzando la coreografia. Essere e avere. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. Italian Factor. Il nostro fattore di eccellenza, ormai lo sapete, non presenta incognite, non c'è nessuna X, ha a che fare con le grandi potenzialità e i grandi successi del nostro paese. Lo stiamo delineando puntata per puntata, lo abbiamo fatto in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben ritrovato. Buongiorno a voi. Nuovo caso aziendale paradigmatico, una delle storie che hai scelto, Francesco, per esemplificare l'Italian Factor, quale? Quello di oggi. Quello di oggi è un'azienda, è un grande nome ed è anche il nome del fondatore, Salvatore Ferragamo. È una storia straordinaria perché intanto è la storia di una famiglia, e quindi è importante ricordare che in Italia l'imprenditoria illuminata ha quasi sempre poi dietro una famiglia, una capacità anche di trasferire nelle diverse generazioni una visione creativa. E Salvatore Ferragamo è poi anche una grande storia di andata e ritorno, perché la sua esperienza americana negli anni 20 è sicuramente la base poi del suo ritorno in Italia e del suo successo mondiale. Oggi va molto di moda parlare di saper fare artigianale italiano. Che cosa significa per un'azienda come la Salvatore Ferragamo? Lo abbiamo chiesto a Ferruccio Ferragamo, presidente della società, uno dei sei figli del fondatore. Ha un significato importante. Noi Ferragamo abbiamo sempre pensato che produrre in Italia è quasi un dovere, e questo dal punto di vista, sto parlando morale, dal punto di vista qualitativo penso che sia importante la continuazione di questo know-how che esiste